attenzione, signor Marino! Ello! Ello! Marino! Attenzione, Gian Maria! E che chiama, che? Buonasera, caspita! Vabbè, che ci rientra del ritardo! Buonasera! Stavo facendo l'albero, stavo facendo, quindi ero troppo lungo. Quasi, un pezzettino me ne manca. Con la scaletta hai fatto? Con la terra? No, sono di quelli finti. Quelle piccole e quelle grandi. E allora? Beadoghisio e ho messo quello, tanto per accontentare i nipoti. Più che altro l'ho fatto per i nipoti. Anche se no non abbia fatto nemmanco. Ha perso il tempo così. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Domani mattina mi prendo il resto e glielo metto. Devo mettere solo una striscia rossa e blu. Sì, così una striscia lì non viene più. No, no, sono palline blu. Se non andava, tu posso andare per un attesi. No, anche me ne botti, a uno e va a Parigi. Ma giù bocci un anno e me l'hanno infatti a Parigi. Forse a me figliola. sono a dieta, ma non ci sono i pari di tutti. Sono andato a San Gianni uno e non venirà ne più. Peso, rischio radiologico sulla Sardegna orientale. Infatti, domani a mangiare ve la picco io burro a struttura, no? Era Ianna. E boh, fatto, finito, non faccio più di pincià. Vabbè. Vabbè, più che altro a me me l'hanno detto, un mio figliura, diciamo fallo per i nipoti almeno. Anda, beh, avanza per i nipoti. Stasera, come ti ha già ricato il cane, come ti ha già cotturato, se farà del magazzino, non ha già stato tutto. Sono più giovani, proprio va me, mi ha convinto me nipoti, che se no manco, ma da che da non aveva fatto più, mi ha convinto ed mi ha convinto. Infatti l'unica cosa è andare da un'altra così e boh, piano piano è sempre andendo, una di arabusta. Oh, ci ho provato a telefonargli e cosa al numero fisso, che ci sono dei bacchisi, boh, non mi risponde nessuno. Adesso guardo domani mattina di chiamare a vedere se mi risponde la moglie. Ma cosa ne so tu? Non lo so neanche, con l'umme di dai che venti vi pura. No, le cose si può fare solo a pranzo, boh, però non con molte persone, al massimo 8 persone, non di più. E adesso si vedrà come farlo. Aspetta qua, anche la roba, va bene così. E alla vera pazienza. Ma secondo me il governo ne gaggi, ha fatto delle restrizioni, il governo ne gaggi. Sì, un po' basso del radio, ho dovuto aumentare parecchio il volume per sentirti. Sì, no, aumento il volume e ti intendono me stessi. Ma così non ci senti, è andato a finire. Se n'è andato in crociera? Sì, che si è andato alla Hawaii, sulla nave di crociera. Ma che essere? Boh, ha detto che doveva partire, è passato, ci senti andato. Boh? Lui ha fatto il chilometro. Ha fatto il chilometro. Non ce ne sono meno che vanno a pigliare nulla. Ho preso, è meglio rimanere in occhi. Che hanno baciato tutto, allora si può andare a viaggiare. Infatti, stanno andando a farsi un giro, manno, con chissà cosa, ci fate un giro, manno, beh. Poi ascendo, infatti, la faccio in caldo, è tranquillo. Sì, se no, pazienza. Vabbè, dai, Gianmarì, io ti lascio, che è giunta ora di... E andai che mi sociamenti. Ci risentiamo domani se tutto andrà bene. D'accordo, sto qua, ci ha autorizzato, ci sono qua. E ok, ciao Gianmarì.